24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci, sono le 6:34 minuti, buongiorno, è venerdì, l'ultimo giorno della settimana per noi. Siamo in onda fino alle 9 con il nostro alpino Peter Bescapè in regia, la nostra Elisabetta Fusconi lì in redazione pronta, il nostro bar che si apre, ecco, è ufficiale, è aperto, il bar di Radio 24. Non ho intenzione di lei non risponde. Nicole Minetti. Un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Tutti quanti, caffè offerto da Nicole Minetti e facciamo pure lo scontrino. Lo dico a Rosario Trefiletti che saluto. Buongiorno, sì, Trefiletti. Buongiorno. Scontrino. E buongiorno a tutti i radioascoltatori. Lo rilasciamo lo scontrino, anche se offre Nicole Minetti. Lo dico anche a lei. Altro. No, perché per carità, che una volta Carlo Rienzi mi ha detto che se no ci manda la Guardia di Finanza. E qua, ecco, io glielo dico. No, io rimanderei i carabinieri. I carabinieri, sono un pochino più duro. Vabbè, insomma, un pochino più radicale. Carabinieri, Guardia di Finanza. Saluto anche e ben ritrovato Alberto Forchielli, buongiorno e ritorno al nostro buongiorno. Bar, anche se in Germania, ben svegliato, presidente dell'Osservatorio Asia, buongiorno. Buongiorno. Che ci fa in Germania? Ma Forchielli gira il mondo, è un imprenditore di quelli, come mai in Germania? Stiamo aprendo le attività nostre in Germania. In Germania. Sì, sì. Allora, io vi voglio far sentire subito, perché i titoli sono quelli dei giornali, no? Ci sono arrivati. Allora, il Sole 24 Ore punta ancora sulle regioni, un balzo del 40% sulla spesa con le regioni. E poi tutti. Monti non esclude il bis, Corriere, Repubblica. Monti, se serve, son pronto a restare. Il fatto, Monti vuole restare, è il tema del giorno. Sentiamolo dalle sue parole. Mario Monti, negli Stati Uniti. Sarò al mio posto nel Senato della Repubblica e poi se le forze politiche, ma io immagino che non si verifichi una situazione del genere, non ho nessun piano al riguardo, se le forze politiche dovessero ritenere che in particolari situazioni mi sia ancora richiesto di servire in qualche modo il paese, io ci sarò. Io ci sarò, ha detto Mario Monti, ebbene sì, io ci sarò. Allora, Trefiletti, ancora Monti ci becchiamo? No, non credo proprio, cioè Monti ha una professionalità importante, può dare un contributo, ma io mi auguro che il paese dia, diciamo così, le responsabilità di governo a chi prende voti, insomma, chi prende più voti, e quindi se chi prenderà più voti vorrà utilizzare Monti, bene, sarà sua responsabilità. Però voglio dire, un conto è avere professionalità e capacità, un conto invece è avere i voti dei cittadini, perché poi si tratta di fare delle scelte, perché non c'è solo il risanamento dei conti da fare, ma c'è anche come fare il risanamento dei conti. Allora lì sono scelte politiche ed è giusto che i cittadini si esprimano attraverso il voto. Il voto ci sarà, ma questo sicuramente. Il concetto è che secondo me Monti ha trovato una genialata, vorrei chiedere su questo anche a Forchielli, cioè il tema è, io non prendo voto, non mi candido, prendo mezzo voto, non prendo mezzo voto, però sono qua, no? E magari comanderò ancora, nel senso, se c'è bisogno, io ci sarò, ha detto ai mercati finanziari. Ecco, Forchielli, questo è, perché Monti dice ai mercati finanziari faccio sapere che io ci sarò? Perché bisogna parlare ai mercati finanziari o bisogna parlare agli italiani? Ma finché un paese ha un debito del 120% del PIL, comanda chi ha i soldi. Quando uno è debitore è in mano al creditore. L'immagine dell'Italia all'estero, che sia Germania, che sia Cina, è devastata. La nostra classe politica è considerata una manica di caimani, per cui la gente è terrorizzata che possa venire su chiunque altro. che non sia Monti. Ho capito, ma allora cosa facciamo? Sospendiamo tutto, perché Monti parla fa le TV a Bloomberg TV, parla ai mercati finanziari, parla agli analisti, parla alla borsa di New York, e va bene, insomma, andiamo tutti in vacanza per 10 anni. Oh beh sì, guardi, questa classe politica può anche andare in sabbatico, secondo me. Capito? Guardiamo che roba, capito? Vogliamo fare dei nomi? Non ho capito, lei ha il coraggio di difenderla? No, per carità, non è che difendo la classe politica, difendo il principio che, viva Dio, si vota e quello che prende più voti va al potere. Cioè, sennò, il problema è che in Italia solo la feccia va in politica, capito? Solo la feccia, tre filetti, no, hai visto? No, hai visto? Ma cosa diciamo? Per cortesia... Ma lei fa l'imprenditore, ma non diamo questi segnali al paese così aberranti. Ma sono anch'io un ipercritico di come la classe politica ha dimostrato da fuori la sua incapacità e oltretutto la sua ingordigia. Ci mancherebbe altro, ma il problema è cambiarla, è mutarla, è ravvivarla. Alla fine poi sono sempre quelli. Ma insomma, questo è un paese in cui ci sono tante persone fatte come abbiamo appunto denunciato adesso, ma ci sono anche, mi sia consentito di dire, tante persone come Tre Filetti, come tanti altri che invece col volontariato cercano di portare avanti le cose. Allora, Tre Filetti, ma per carità, sì, no, Tre Filetti, visto che lei difende un po' la classe politica, le voglio far ascoltare. No, io non difendo nessuna classe politica, anzi, dico completamente. No, ma perché dovevo approfittarne per far sentire quello che è un nostro tormentone, no? E Rocky Fiorito, sai che io lo chiamo così, Rocky Fiorito, da quando ha battagliato con lei, perché Tre Filetti, dovete saperlo, era quello che si è preso i cazzottoni verbali di Fiorito, no, da su Rete4, eravate su Rete4. Gli ho detto di andarsene, di chiedere scuse, di andarsene via. Sentite, faccio sentire anche a Forchielli, sentite Fiorito, no? Fiorito come replica! Perché ha trovato male per i suoi denti, perché già la settimana scorsa mi ha insultato senza motivo. Sono lei prima di parlare della razza si deve informare. Ora è chiaro, la voglia di sé parla Tre Filetti, perché io ho la storia politica e tutto rispetto. Benissimo. È chiaro, sono rinnovato da 27 anni. Ora ne parliamo. Sono due volte che sono il primo a dire più alla regione. Aspetti, però. E di certo non c'avevo voglia di volumenti. Questo la prima campagna attuale l'ho fatto in una cantina di casa. Fiorito. È chiaro. E lei non sa un cazzo per parlare. Eccolo là. Allora, Forchielli, questo è Francone Fiorito, se l'è perso, era già all'estero questi giorni oppure... No, me lo sono letto sul giornale, gente senza vergogna, capito? E poi facciamo una fila. Questa gente qui è l'unica alternativa, cioè, se dobbiamo votare sta gente qui... Mm. In realtà la gente per bene, la gente che ha un lavoro, non va in politica. C'è un processo di selezione avversa, per cui in politica ci vanno... i poveracci che non hanno lavoro, oppure ci vanno quelli che pensano di potersene approfittare. Mm. Cioè, poi questa immagine che ci riporta poi dall'estero, che gli farebbero poi, torno da Tre Filetti per capire come ha reagito, lei che è esperto di Cina, che gli farebbero a un Franco Fiorito in Cina, se è accertato? Credo proprio che gli taglierebbero la mano, o peggio. Perché ho visto che chi ha fatto... contraffazione o corruzione ha avuto una brutta... infatti. Ecco, io, vabbè, io... No, insomma, ma per carità, naturalmente... no, su questo no, ma Forchielli è vero che farebbero, cioè, che succede? Che succede a un in Cina così? Ma se ne parlerebbe più. Non se ne parlerebbe, diciamo così, non se ne parlerebbe. Non sarebbe oggetto di questa conversazione radiofonica. O non più, o per poco, o per poco. Okay. Per poco. Tre Filetti, ma lei perché l'ha visto, cioè, Francone Fiorito come battaglia, senza nessun pudore, proprio un arrogante presuntuoso, e guardi, io però penso che quell'arroganza e quella presunzione siano anche dovute a tanta paura, perché io sono convinto che comunque la questione finirà per lui, credo, abbastanza male, insomma, e comunque già è segnato dal fatto, perché gli italiani poi non è vero che siano degli stupidi, invece proprio l'incontrario, e credo che non dimenticheranno. Oltretutto ormai adesso questa cosa ha messo in mora una regione stessa, ha messo in moto un meccanismo per cui finalmente si andrà in parte a una riduzione dei costi della politica per le regioni, quale il numero dei consiglieri, quali stipendi e via dicendo. Ma insomma, bisogna fare certamente ancora di più, però insisto, deve essere il voto democratico a definire chi saranno i nostri futuri. No, su questo sono d'accordo anch'io. Forchielli, lei non è d'accordo, non nel senso che vorrebbe sospendere il voto, però a dire la classe politica è talmente screditata che tanto vale avere un Monti. Però capisce che, voglio dire, allora sospendiamo le elezioni, cioè manco votiamo, no? Cioè, ci risparmiamo una gran perdita di tempo e un risparmio di denaro anche, no, Forchielli? A sto punto. Ma adesso sì, non è che posso augurarmi la dittatura, però vorrei, sai, l'Italia, morto un caimano se ne fa un altro, capito? Ormai sono 60 anni che andiamo avanti così, per cui questo passo indietro dei politici mi fa tanto piacere, poi quando i politici si renderanno conto che nelle loro posizioni non possono rubare, forse ci sarà un miglioramento. Forse. Adesso abbiamo bisogno di un time out. E dei politici. Ma viva Monti, viva Monti. Senza le chiavi della cassaforte in mano. Viva Monti e che parli ai mercati finanziari, va bene così. Intanto ieri è ritornato Berlusconi, da qui voglio partire tra un minuto, perché è tornato con uno dei suoi vecchi cavalli di battaglia. Viviamo in uno stato di polizia tributaria contro il fisco. Viva la RAI, che fa crescere Sevani. Viva la RAI. Perché da tre giorni non va in onda il RAI? Perché non ne ho voglia. Mettiamola così, non erano comunque le domande alle quali intendevo rispondere, sono cazzi miei, diciamo. Vabbè, ho capito, però Ferrari. Andiamo avanti, grazie. Andiamo avanti, non si può sapere perché da tre giorni vai. Andiamo avanti. Oggi almeno andrà in onda, questo lo possiamo sapere. Andiamo avanti. Cazzi di Giuliano Ferrari. Bravo. E allora, Giuliano Ferrara anche ieri non è andato in onda, ieri ci motivava così, non c'ho voglia, il Rai, sono mobbizzato, cazzi miei, non ho voglia di andare in onda. Questa è la versione di Giuliano Ferrara, fidataci, ieri, ma noi siamo qui nel nostro bar di Radio 24 con Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, e con Rosario Trefiletti, Federconsumatori. Berlusconi ieri è tornato, ha detto l'euro è il grande imbroglio e ha detto questo sul fisco italiano. Le famiglie si sentono osservate da un fisco occhiuto, si sottopongono queste famiglie ad un esame accurato con, per esempio, il redditometro, che è qualcosa da fare paura, una cosa da stato di polizia tributaria. Eccoci qua, Trefiletti, fisco occhiuto, noi lo scontrino l'abbiamo già emesso qua, se poi volvi a controllare così i carabinieri ce li lascia a casa. Fisco occhiuto, la gente ha paura, stato di polizia tributaria, è uno dei grandi cavalli di battaglia di Berlusconi. Sì, diciamola tutta, chi ha paura, per la verità, non sono la stragrande maggioranza degli italiani, perché quelli pagano le tasse alla fonte, cioè i lavoratori, i pensionati, quindi non sono terrorizzati per nulla. Lo sono in parte quelli che o fanno i furbi oppure temono effettivamente di avere una pressione fiscale, e questo è vero, eccessiva nel nostro paese. Temono. Trefiletti, siamo con la pressione fiscale che in Europa ci fanno un baffo. Sicuramente, addirittura è arrivata al 55%, voglio dire, questo della pressione fiscale che deve essere superata attraverso tagli, eliminazione degli sprechi, abbattimento dei costi della politica e via dicendo, anche dei livelli istituzionali, questa cosa delle province che non si sa che devono essere ridimensionate, ma poi si ridimensionano in un certo modo, mentre invece avrebbero dovuto essere azzerate. Sì. Ma insomma, ecco, bisogna tagliare e poi fare investimenti, perché non è che si può solo raggiungere l'equilibrio dei conti, se non si fanno gli investimenti sui settori produttivi, innovazione, ricerca, banda larga, eccetera, eccetera, beh, insomma, non usciamo più, non se ne esce. Insomma, ecco. Non se ne esce. Forchielli, che dice di Berlusconi, che parlava credo dello spesometro, no? Di questa cosa di voler andare a controllare tutte le spese degli italiani per poi vedere se sono congrue con il reddito dichiarato. Siamo alla polizia tributaria. Ragazzi, il fisco in America, in Germania, nei paesi scandinavi è tosto. La gente si è abituata e non si lamenta più. Sì, però magari hanno nei paesi scandinavi hanno i servizi che funzionano, gli ospedali perfetti. Questo è il problema del settore pubblico che ancora nessuno è stato capace di riformare. Separiamo i problemi. Una cosa è pagare le tasse, e lì ci vuole un fisco severo, e il passaggio sarà, perché c'è gente che è abituata a certi tenori di vita e pagando le tasse ovviamente il tenore di vita si abbassa. Che poi il settore pubblico vada riformato perché è altamente inefficiente, questa è un'altra grandissima riforma che il nostro sistema politico sarebbe incapace di fare. Sì, però l'altra questione che dice Berlusconi è sull'euro, il grande imbroglio, l'ha definito così, il grande, era la presentazione del libro di Brunetta che si intitola Il grande imbroglio, allora ha detto il grande imbroglio è l'euro, ci hanno fregato perché abbiamo messo questo 1936, quello che è, 27, un cambio assurdo per il quale le nostre materie prime si sono deprezzate, i nostri prodotti si sono apprezzati, la gente non li ha comprati più dalla Cina, ha detto anche della Cina, Forchielli ha detto là ovviamente fanno lavorare i bambini, non ci sono i sindacati, e ci ha fatto un mazzo così, questo è il molto, e quindi il grande imbroglio è stato questo euro, Forchielli. Ma l'euro è stata una scommessa, si sperava che l'Italia potesse essere a livello degli altri paesi europei avanzati, ristrutturare la propria industria e uscire da quel circolo vizioso di 60 anni di svalutazioni competitive. Il paese ha retto malamente, le piccole e medie imprese ce l'hanno fatta, sì, e si sono efficientate, il resto del paese non si è adeguato. Non siamo a livello dell'Europa, non siamo un paese dell'Europa civilizzata, dobbiamo tornare a quel paese intermedio tra Africa e Europa che vive di svalutazioni competitive. Questo è il panorama che ci dice Berlusconi. In realtà non è un messaggio ottimista, è come dire siamo sfigati, rimaniamo sfigati. Tra l'Africa e l'Europa siamo? Esatto. Beh, geograficamente sì, però siamo un po' più Africa, un po' più Africa o un po' più Europa? Siamo un po' più Africa o un po' più Europa, secondo lei? La seconda, un po' più Europa. Vabbè, almeno, sì. Questo è un messaggio proprio ottimista. Capito? Ma dove? E in che senso dove? Il paese è lungo, capito? Per cui, attenzione! Cioè siamo I tassi, e chiaramente i tassi di evasione sono più alti al sud di quanto sia al nord. Al sud c'è la criminalità organizzata. E quindi, anche al nord, quello purtroppo anche al nord. Comunque il nostro non è un paese democratico, industriale, moderno, che sta in un G8, capito? Ma siamo Forchielli leghista. Il discorso per cui è molto chiaro: si va avanti a svalutazioni competitive. Va bene, io si applicava la tassa, si è sempre applicata. Basta, non lo fermiamo più, Forchielli. Non lo fermiamo più, Forchielli. In questo venerdì 28 settembre, intanto i titoli di apertura di Regioni si occupa in prima pagina nel titolo di apertura al Sole 24 Ore, per il secondo giorno consecutivo un'inchiesta sui costi delle regioni. Il titolo di apertura Regioni un balzo del 40%, così la spesa chiama più tasse. E poi tutti gli altri quotidiani più o meno aprono con Monti e l'apertura del Premier a una possibilità di un reincarico. Monti non esclude il bis, così il Corriere della Sera. Repubblica, Monti se serve pronto a restare. La Stampa, Monti se serve al paese ci sarò. L'Unità, Monti bis, speriamo di no. Questo è un virgolettato sondaggio. Il Premier apre a un secondo mandato ma solo in caso di necessità. Il Messaggero, governo, Monti apre al bis. Il Secolo XIX, governo, Monti apre al bis. Identico titolo. Il Fatto Quotidiano, è ironico. Un futuro radioso, Monti vuole restare, Napolitano vuole l'amnistia. Avvenire, Monti se serve ci sarò. E poi Libero, usano Sallusti per svuotare le carceri, la questione Sallusti è anche sul giornale, meno 29 giorni al carcere. Il Manifesto invece sul caso Ilva, assalto ai forni, a Taranto la tensione torna alle stelle. Uno dei temi dell'Ilva di Taranto sicuramente ne tratteremo con Nicky Vendola alle 8:15. Allora, le spese delle regioni, non vi voglio far inacidire prima del weekend, ma vi regalo due belli articoli, due belle chicche. La prima riguarda sempre la Regione Lazio e l'ormai celebre Herb Batman, anche se lui disconosce questo nomignolo che gli è stato affibbiato, a pagina 11 del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, e Fiorito spese 4.000 euro in una cartoleria. E beh, si continua a spulciare negli elenchi, in quello che ormai è definito da Fiorenza Sarzanini un pozzo senza fondo, l'elenco dei bonifici da centinaia di migliaia di euro disposti da Franco Fiorito. E ora nuove sorprese arrivano scorrendo la lista dei destinatari degli assegni firmati dall'allora capogruppo PDL alla Regione Lazio, tanto che nel registro degli indagati sono già iscritti i suoi segretari, Bruno Galassi e Pierluigi Boschi. Ma spulciando tra le nuove spese scoperte uscite quantomeno curiose, una per tutti: 4.120 euro pagati il 12 aprile scorso a Pinaider, la cartoleria più prestigiosa di Roma, e poi 3.000 euro per il pernottamento in un villaggio turistico, 4.200 euro per la società Image, che vende manifesti e quadri, e poi assegni, 1.558 euro a Mary Greco, che in un'altra occasione ha ottenuto 1.565 euro, Stefano Forte, due assegni da 900 euro, Maria Puzzone, risulta essere parente dal consigliere Romolo Del Balzo, anche lei, uguale trattamento, due assegni da 900 euro. Insomma, si va a spulciare nei bonifici, negli assegni, e sembra un pozzo senza fondo. Poi vi voglio segnalare anche questo articolo sul Secolo XIX in prima pagina. Obiettivamente, allora, si dice, quando si vuol dire, no, dei politici, è tutto un magna magna, sono i politici mangioni, crapuloni, e il Secolo XIX testimonia che non è poi una leggenda. Quanti soldi si spendono per le cene? Sempre a tavola, sempre a tavola, sempre nei ristoranti sono, a meno di sera, i politici, almeno da giudicare dai bilanci liguri al microscopio, dai ravioli con l'usi ai giri a cavallo, le spese ridicole dei politici regionali, così è il titolo dell'articolo di Alessandra Costante. Il 26 febbraio 2011 Luigi Lusi, quello là, quello l'ex tesoriere della Margherita, mangiò ravioli, che è in convento, ricordatelo, mangiò ravioli al tartufo pagati dal gruppo regionale del PD della Liguria. Forse erano solo all'olio di tartufo, visto che costavano 12 euro a porzione, ma alla fine il conto della cena fu di 250 euro per 7 persone. Ben più salata la spesa per la manifestazione nel quale l'ex tesoriere della Margherita fu invitato a partecipare a Imperia, 1.294 euro tra manifesti, affissioni, ospitalità, affitto della sala. E meno di un anno dopo l'indagine nei confronti di Lusi per aver fatto sparire 13 milioni di fondi della ex Margherita. E certo, c'è da dire, racconta il Secolo, che fu quasi chiamato per dispetto dal gruppo regionale del PD. Avevamo voluto trascinarlo qui in Liguria, Lusi, a Imperia, visto che era stato eletto qui, ma poi era sparito. Ma se si vanno a vedere tutte le spese, tutte lecite, per carità, specifica il Secolo, stando alla delibera che regola le spese dei gruppi, le voci sono spese per convegni, seminari e altre iniziative, e solo che le altre iniziative sono quasi sempre delle cene ai ristoranti. Le cene con i cacciatori, per esempio, sono tra le più diffuse in Liguria. Fatture senza intestatario, un ristorante per esempio a Cogoleto, dove è a casa il vice capogruppo Walter Ferrando, congetture, ma il pensar male di Andreotti fa proseliti. Oppure nel feudo di Cogoleto il PD ha parecchie cene con numerosi coperti in un'osteria sulle alture, cene per cacciatori, anche a Imperia, costi da 420 euro circa. Poi il PDL, anche il PDL è pieno di amanti della bella vita, nei suoi conti spiccano alcuni acuti, ad esempio la cena con aperitivo in un albergo 5 stelle di San Michele di Pagana, 1.340 euro per 34 coperti, oppure 1.400 euro in un altro hotel. Insomma, ma anche l'IDV, l'Italia dei Valori, attrazione per la buona tavola, 450 euro per il pranzo di 5 persone a un ristorante, le Perlage, abbiamo invitato Antonio Di Pietro, osserva il capogruppo Nicolò Scialfa. Insomma, il concetto è, come titola il Secolo, tartufi e sgambetti pagano i liguri sul conto dei gruppi regionali, cene e campagne affissioni. Le cene, il magna magna, si può dire, c'è sempre. Prima della pubblicità vorrei raccontarvi una cosa che riguarda milioni di italiani. Sono arrivate nuove regole per il condominio, approvate alla Camera, E tutti i giornali, molti giornali si concentrano su una regola soprattutto. Ora sarà vietato mettere nei condomini quel regolamento che dice che non si possono tenere animali domestici. Cani e gatti di casa diventano condomini, sono ufficialmente condomini a tutti gli effetti, con diritto di residenza nella casa di famiglia, lo ha deciso la Camera, che ha sancito il principio inviolabile per cui le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Così leggo dal Corriere in prima pagina e poi all'interno a pagina 31, cani e gatti nei palazzi sarà vietato vietarli. Dunque, i condomini devono essere animal friendly, amici degli animali, buon per loro che non pagano l'IMU, fa sapere il Corriere della Sera, ma cani e gatti sono ufficialmente dei condomini a tutti gli effetti. Così anche sul Giornale a pagina 22, Enza Cusmai, animali vicini di casa per legge, ecco le regole del nuovo condominio, via libera dalla Camera per la riforma. Tra le innovazioni c'è la libera accoglienza, ovviamente nel rispetto dell'educazione e dell'igiene, a cani e gatti. E così Libero, animali, caldaie web cambiano i condomini, vietato proibire cani e gatti. Mi sembra una buona notizia, al passo con i tempi, finalmente. Allora, il tema con cui aprono molti quotidiani è questo, la possibilità di un Monti bis. È un tema molto interessante perché ovviamente Mario Monti, non per la prima volta, ma ha detto se necessario io ci sarò. Questo è il tema, come racconta Marco Valsania a pagina 6 del Sole 24 Ore, se serve al paese ci sarò. In America, dopo essersi definito un tecnico e un modesto economista davanti alla platea di investitori e policy maker del Council on Foreign Relations di New York, ha sfoderato una forte promessa politica, ha aperto alla possibilità di rimanere primo ministro dopo le elezioni in Italia. Ha detto nuovamente: non sarò candidato, sarò al mio posto, che vuol dire il posto da senatore a vita. Voglio restare estraneo agli schieramenti, ma se mi verrà chiesto e prenderò in considerazione nello spirito di servizio la possibilità che, se non c'è un accordo tra i partiti dopo le elezioni, io possa tornare a un Monti bis, a diventare nuovamente presidente del Consiglio. Se me lo chiedono le forze politiche, sono disponibile. Beh, insomma, cari ascoltatori, cosa dobbiamo pensare? C'è ovviamente, adesso vedremo le reazioni politiche, c'è chi dice, vabbè, ma allora non facciamo neanche più le elezioni, tanto se si sa già che c'è la possibilità con i partiti rissosi, con la politica screditata a livelli infimi e bassissimi, che tanto poi dopo finisce che richiamiamo Monti perché bisogna tranquillizzare i mercati internazionali, rassicurare i leader di tutto il mondo con la credibilità di un paese, e allora tanto vale nominarlo subito e sospendiamo, insomma, quella democrazia che si chiama elezioni. Questa è la reazione di alcuni rappresentanti politici. Sta di fatto che bisogna vedere nei retroscena, per esempio il retroscena sul Corriere della Sera, che trovate a pagina 2, dietro le frasi da New York, le preoccupazioni del Colle. L'ultima volta era stato Berlusconi, leader del PDL, a chiedergli: candidati Mario, ti sosterremo in tanti, io, Casini, Montezemolo. Però Monti ha sempre detto di no, ma certo c'è la preoccupazione di... la preoccupazione del presidente della Repubblica Napolitano. Interessante anche che a pagina 2 della Stampa si vada a intervistare con Paolo Mastrolilli chi? Mark Zandi, chief economist di Moody's. Cioè, capite, per analizzare la situazione politica italiana si intervista il capo dell'economia di Moody's. Ecco, già questo dovrebbe dare delle risposte abbastanza interessanti, e lui fa un'analisi politica dell'Italia. L'Italia beneficerebbe se il professore restasse premier, dice Mark Zandi. È fondamentale capire in che direzione andrà l'Italia, se il prossimo governo sarà altrettanto impegnato nelle riforme strutturali, nella disciplina fiscale. C'è un po' di preoccupazione, nervosismo, incomprensione nel vostro processo politico. Monti ha fatto chiarezza. Sì, Monti ha fatto un lavoro ammirabile nel guidare l'Italia attraverso il periodo economico straordinariamente difficile. Il paese beneficerebbe dalla prosecuzione della sua leadership se le elezioni finissero in pareggio. Ecco, questo è l'auspicio, quindi nessuno vuol sospendere le elezioni, si facciano le elezioni, ma se poi non c'è un vero vincitore, allora eccolo qui, io ci sarò, è la frase di Mario Monti. Nel retroscena del secolo XIX, firma Giovanni Palomba, pagina 3, pare che a un certo punto Monti, scettico dopo gli incontri in America, sia stato molto preoccupato perché il suo sogno, secondo il secolo, è quello di prendere il posto di Barroso nel 2014, occuparsi di Unione Europea. Ma Mario Monti è tornato dal viaggio negli Stati Uniti con un grande punto di domanda che ha girato al capo dello Stato napolitano, e vale a dire questo: mi hanno chiesto, questo è il virgolettato attribuito a Monti, mi hanno chiesto che fine farà l'Italia dopo il 2013 e io non ho saputo dare una risposta. Questo è il messaggio che Mario Monti ha portato a Napolitano, secondo il secolo, e da qui, insomma, tutti questi dubbi a dire forse è il caso che, vista la credibilità che mi porta presso quando giro per il mondo, possa anche ripensarci e stare ancora qui se mi chiamano. Le reazioni politiche, beh, il PD e Bersani è molto scettico e molto perentorio. Monti resta una risorsa, ma devono decidere le urne e una maggioranza politica. Così Bersani in un colloquio con Repubblica a pagina 7, Goffredo De Marchis, non è proprio un'intervista, ma un colloquio con tanti virgolettati. Non possiamo vivere nell'eterna emergenza, dice Bersani, dobbiamo ritrovare la normalità, altrimenti il vero rischio è dare per scontato che la politica non è in grado di offrire soluzioni. Questa la reazione, prima reazione di Bersani, mentre invece c'è l'entusiasmo di Casini, dell'UDC, come racconta il Corriere della Sera a pagina 3 nell'articolo di Alessandro Trocino. Se qualcuno pensa che dopo il voto io debba fare una maggioranza con Berlusconi e Grillo, io mi riposo, dice Bersani, mentre invece l'UDC di Casini risponde con soddisfazione a questo annuncio della possibilità di Monti di rimanere un Monti bis. Berlusconi invece ieri è riapparso. Ecco, Berlusconi, c'è da dire, secondo tutti i quotidiani ci sono due interpretazioni di Berlusconi. Quella pubblica, adesso è riapparso, ieri ha tuonato contro lo Stato di Polizia Tributaria, lo spesometro, il redditometro sono strumenti invasivi della privacy italiana, Equitalia fa estorsioni, l'euro è stato il grande imbroglio. Ecco, questo è il Berlusconi d'attacco, e questo lo trovate nei titoli. Berlusconi, prima si va da votare, attacca Equitalia, fa estorsioni, così titola il Corriere a pagina 5, l'euro è un grande imbroglio e nessuna tragedia se la Germania ne esce. In realtà poi c'è il Berlusconi, secondo molti, dietro le quinte. Il Berlusconi dietro le quinte viene dato dai quotidiani come La Stampa, Amedeo La Mattina, a pagina 4, soddisfatto per la possibile riapertura di un Monti bis, per la possibile ipotesi di un Monti bis. Perché in realtà è un Berlusconi che non sarebbe più convinto di poter vincere le elezioni, e quindi portando a un pareggio e quindi a una situazione di scarsa governabilità, si potrebbe allora andare avanti con Mario Monti, che diciamo non potrebbe essere neanche la soluzione peggiore. La versione ufficiale di Berlusconi, affidata ai microfoni, Monti bis, ma come si fa a rispondere? Ci devono essere le elezioni e non sappiamo con quale legge elettorale, già, perché qui, aperta parentesi, ormai si è conclusa anche oggi, che è venerdì, ultimo giorno di lavoro in Parlamento, la trentesima sarà settimana definita come decisiva per la riforma elettorale. Ovviamente si va avanti un po' nel ridicolo e nel nulla. C'è interessante anche a retroscena l'articolo di Mattia Feltri sulla Stampa, pagina 4, di come hanno appreso invece in Parlamento questa notizia di Monti bis. E Mattia Feltri racconta di peones sbandati, qui è tutto finito. In transatlantico, tra risse e sospetti sui seggi promessi, c'è anche la frase che è diventata già la frase del giorno, forse della politica, con un onorevole ex AN che torna indietro dal cronista e lo supplica prima di garantirgli l'anonimato, e che dice: noi aspettiamo Berlusconi come uno storpio aspetta il pellegrinaggio a Lourdes. Questa la situazione in Parlamento. Chi invece esclude categoricamente un bis è il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che oggi scrive una lettera pubblicata in prima pagina sul quotidiano Pubblico di Luca Telese. La lettera del nostro Presidente: caro direttore, scrive Napolitano, le scrivo per sgomberare il campo da ogni ipotesi, spero definitivamente, di Napolitano bis. Non è solo un problema di indisponibilità personale facilmente intuibile, da me ribadita più volte pubblicamente. La mia è soprattutto una ferma, insuperabile contrarietà che deriva dal profondo convincimento istituzionale che il mandato, già di lunga durata, di Presidente della Repubblica, proprio per il suo carattere di massima garanzia costituzionale, non si presti a un rinnovo comunque motivato, né tantomeno a una qualche anomala proroga. Un cordiale saluto, molti auguri per il giornale da lei diretto. Insomma, questo Giorgio Napolitano prende carta e penna e fuga ogni dubbio sulla possibilità di un Napolitano bis. Certo, anche qui si potrebbe considerare che paese è quello in cui si può ipotizzare l'idea di un rinnovo di un settennato a Giorgio Napolitano, che, con tutto il rispetto, ma insomma l'anno prossimo compie 87 anni e quindi dovrebbe arrivare fino a 95 anni Presidente della Repubblica. Siamo un paese per giovani. Le regioni, oltre ai conti si spulcia di quelli di Batman Fiorito e di altri. Oggi il Sole, una nuova inchiesta sui consumi delle regioni aumentati del 40%. Dopo ieri le tasse aumentate del 50% negli ultimi 10 anni, ecco l'altro effetto del federalismo all'italiana o alla matriciana, si potrebbe dire: 40% i consumi delle regioni su. Mentre per quel che riguarda i costi della politica le regioni vogliono ora fare sul serio, ma chiaramente perché scottate dalla paura, dalle inchieste, ora dicono basta e presentano il proprio testo che prevederà tagli sui rimborsi, tagli sui monogruppi, quella genialata di cui ci siamo occupati varie volte. Ricordatevelo sempre che nelle regioni italiane ci sono anche dei monogruppi. Lo so che già il nome fa imbizzarrire, cioè gruppi di consiglieri, gruppi, quindi un gruppo da quanto sarà formato? 4, 5, 6, un gruppo, 3, 2, no, da una persona, i monogruppi, così prendono il rimborso per il gruppo che rappresentano. Pensate alle riunioni in cui si convocano tutto il gruppo, si mandano a se stessi delle convocazioni, si riuniscono da soli e dicono: che bel gruppo che siamo, ora gestiamo questi fondi. Comunque le regioni vogliono tagliare questa cosa dei monogruppi, vogliono tagliare consiglieri regionali, eccetera. L'inchiesta, secondo giorno consecutivo di inchiesta sui costi delle regioni sul Sole 24 Ore, le uscite correnti, anche quelle improduttive, sono salite in 10 anni alla cifra record di 151 miliardi. Eccolo qui, regioni, un balzo del 40% sulla spesa corrente, lievitate da 107,6 miliardi fino a 151 miliardi nel 2010. Un aumento record del 40,3% che spiega il peso crescente del fisco territoriale. Sono le uscite correnti la parte più vivace delle spese totali delle regioni. E con Gianni Trovati a pagina 3 trovate dettagli regione per regione sulle spese correnti. Ma c'è una buona notizia, forse, cari ascoltatori, forse c'è una buona notizia che proviene dalla regione Lazio. Abbiamo detto che pagherete tutti a Erbatman e ai consiglieri il vitalizio anche se la legislatura è finita quando avrà 50 anni. Forse però la buona notizia la dà il Messaggero: il vitalizio a 50 anni potrebbe saltare, ma solo se il governo ricorre al decreto. Verrebbe da chiamare subito, avendo il cellulare del Premier Mario Monti: Premier Mario Monti, per favore, se è vera questa notizia data così, fate un decreto in 3 secondi. Questo è il titolo, almeno. Fiorito e la pensione a 50 anni, lo scandalo che si può evitare. Diodato Pirone, in prima pagina del Messaggero, potrebbe saltare la legge del Lazio sui vitalizi che assicura l'ennesimo privilegio a consiglieri e assessori regionali, ovvero unico caso tra le 20 regioni italiane farlo scattare a 50 anni. Una norma che consentirebbe a Franco Fiorito, che ha 41 anni, di ottenere tra soli 9 una rendita a vita che oscillerebbe tra i 3 e i 4 mila euro netti al mese. Però, poiché il Consiglio regionale del Lazio autonomamente non potrebbe varare decisioni di portata straordinaria, l'unica strada percorribile è quella di una norma ad hoc, una norma da inserire in un decreto sui tagli ai costi del personale politico della regione che il governo potrebbe varare nei prossimi giorni. Vi prego, che cosa state aspettando? Ecco, questo è l'appello che possiamo fare al governo. Se qualcuno ci sente e se è vera questa possibilità, fatelo per favore. Vedremo nei prossimi giorni. Napolitano, il capo dello Stato, ha ieri aperto un tema annoso, questione dibattuta di solito, sulla questione delle pene alternative al carcere e non ha escluso la possibilità di amnistia e indulto. Ha detto: le carceri sono indegne, ci vogliono misure alternative, e ha detto Napolitano: non è neanche escluso la questione di un possibile speciale ricorso a misure di clemenza. È un tema, ricordate, quando ci fu l'indulto anni fa, votato dal Parlamento, ci fu un dibattito estremo su questo. Il Fatto Quotidiano è già polemico in prima pagina. Un futuro radioso, Monti vuole restare e Napolitano vuole l'amnistia. Ferita per il paese, bisogna introdurre pene alternative, anche così il Corriere della Sera. Insomma, apre su questo tema Giorgio Napolitano, un tema che sicuramente farà discutere. A proposito di carcere, il giorno dopo la sentenza che ha condannato in via definitiva il direttore del giornale Sallusti a 14 mesi di carcere, il giornale apre così: meno 29 giorni al carcere. Il tema che è deflagrato dai giornali è quello del fatto che Renato Farina, oggi onorevole, radiato dall'ordine dei giornalisti per la vicenda in cui era agente Betulla, eccetera, agente dei servizi segreti, ha detto alla fine quello che sapevamo un po' tutti, si sospettava, e cioè che è lui l'articolista, quel Dreyfus che ha firmato. Farina confessa, ora fa una serie di interviste, ieri era anche la Zanzara di Giuseppe Cruciani: l'ho scritto io. Mentana gli ha dato dell'infame in una maniera molto molto dura. Ieri addirittura Mentana al TG della 7, lo seguivo, ha detto: se fosse stato un uomo lo avrebbe detto prima della condanna. Parole durissime, Enrico Mentana. Oggi Farina si sfoga, fa una serie di interviste, ma la frase più significativa la affida al Corriere della Sera ad Angela Frenda, quando dice: Sallusti e Feltri mi hanno sempre aiutato nel momento del bisogno, io gli ho combinato sempre dei casini. Sentite, ma io ormai mi sento deformato in un'armatura che mi deforma, mi sento stretto. Qualunque cosa faccio e dico è deformata dal pregiudizio, magari anche meritato, che mi porto dietro. L'espulsione dall'ordine per il caso Abu Omar pesa e come. Io vorrei riavere il mio tesserino, tornare a fare il mio lavoro, il giornalista. Invece sono trattato come un paria. Sono caduto in un tombino e chi passa si diverte a guardarmi tutto insozzato. Faccio senso, ma nessuno mi aiuta. Così Renato Farina, mi trattano da vile. Pare che anche Vittorio Feltri l'abbia dato del vigliacco. Chiudo con una notizia che trovate solo a pagina 50 del Corriere della Sera, con un richiamo piccolo piccolo in prima pagina. Storie italiane. In Italia il Consiglio di Stato ha detto che è sbagliato escludere una ragazza dalla maturità anche se l'hanno beccata a copiare con un palmare. Il Consiglio di Stato ha dichiarato, succede in Campania, al TAR della Campania l'aveva esclusa dalla maturità. Il Consiglio di Stato invece ha ribaltato la decisione del TAR e ha dichiarato illegittimo escludere una ragazza dagli esami di maturità perché sorpresa a copiare con un telefono. Sanzione che non avrebbe tenuto adeguatamente conto né del brillante curriculum scolastico né dello stato d'ansia della studentessa. Ma sì, cari studenti, siete ansiosi perché dovete fare un esame? Copiate, copiate pure, fate così, farabutti di italiani crescono, copiate, copiate, tanto c'è un tribunale che vi dice: aveva lo stato d'ansia, non si può escludere una ragazza beccata a copiare. a un esame di maturità. No, chissà che bell'esempio che avrà questa ragazza per il futuro, eh? Voglio subito salutare oggi con noi il governatore della regione Puglia, Nichi Vendola. Buongiorno e benvenuto, buongiorno, presidente. Buongiorno a voi. E anche leader di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà. Senta, presidente, partirei dalla notizia, non so se l'ha sentito, collegato in coda della viabilità. A Taranto protestano gli operai, città, gli ingressi bloccati. Fanno bene gli operai a protestare? Lei è dalla loro parte? Ma io capisco il senso della protesta da parte di chi... l'angoscia della possibile perdita del posto di lavoro. Sullo sfondo di questo conflitto c'è il rischio serio che il più grande siderurgico d'Europa, che la grande fabbrica, si dice che l'Ilva sia dentro Taranto, a Taranto si dice che Taranto è dentro l'Ilva, per dare l'idea di quanto sia sterminata questa fabbrica, c'è il rischio che possa chiudere, perché se chiudono diciamo i segmenti di apparato produttivo che noi chiamiamo aria a caldo, se si spegne l'aria a caldo non si può più riaccendere, finita la storia del glorioso Italsider. Beh, io devo dire che ha ragione l'operaio che chiede di avere una prospettiva di futuro, ma hanno ragione i magistrati che pongono all'Ilva domande molto brucianti e che sì, hanno collocato l'Ilva sul banco degli imputati. Il conflitto non può essere rappresentato come un conflitto tra le ragioni del lavoro e le ragioni dell'ambiente e della salute. Però, come ha detto lei, appunto sul piatto c'è la possibilità che l'Ilva dica, l'azienda dica, sì, e allora noi chiudiamo e andiamo via. Il conflitto invece è tra, diciamo così, un'antica storia, quella del primato della logica del profitto, e dall'altro lato le ragioni del lavoro e le ragioni dell'ambiente, che insieme rischiano di essere ferite. L'Ilva deve dare risposte precise sulla sua disponibilità a fare tante cose concrete che possano rimuovere le ragioni che producono una relazione tra inquinamento, patologia e mortalità. Ecco, guardi, è accaduto, sta accadendo un fatto storico. Un conto è partire dai limiti delle emissioni e dire noi dobbiamo rispettare i limiti nella emissione dei vari nanogrammi di veleni. Sì. Altro conto è partire, come le perizie epidemiologiche e la nuova consapevolezza che hanno i cittadini, partire dai dati reali della salute dei cittadini. Noi assumiamo come criterio il principio assoluto del valore della salute, del valore della vita, allora bisogna adeguare le soglie emissive, bisogna adeguare le tecnologie, gli apparati produttivi al rispetto assoluto della vita e del vivente. Lei ha detto anche e ha fatto la proposta, l'Ilva investa alcuni dei suoi profitti, definiti da lei credo ciclopici, per questo. Diranno il solito Vendola diciamo comunista che attacca il capitalismo? No, diciamo che oggi la storia dell'industria deve essere convocata a una svolta. Non è possibile immaginare che sia fatale convivere con i veleni. Oggi sappiamo che l'inquinamento industriale entra nei polmoni dei bambini, uccide i cittadini. Non possiamo pensare che questo sia un dato immutabile. Un tempo abbiamo lottato contro l'amianto, quando abbiamo scoperto il mesotelioma pleurico, quando abbiamo scoperto cosa significasse morire di asbestosi. Bene, noi dobbiamo mettere al bando i veleni, dobbiamo entrare in un'epoca in cui l'ambiente non deve essere considerato un fastidio, sì, ma è un vincolo assoluto. Senta, le chiedo questo sul fronte politico. Ha visto che Monti dice ci sarò se servo, l'ipotesi di un Monti bis, dopo le elezioni ovviamente, lei come lo vede? Ma è un'ipotesi... io contrasto, perché intanto se servo significa immaginare altri scenari di crisi economica ulteriori, oppure un pareggio politico, cioè nessuno che esce vincitore dalle urne. Ma anche questo penso che sia abbastanza improbabile. ciò che è sotto i nostri occhi dal punto di vista della responsabilità storica, il centrodestra che è stato protagonista assoluto della devastazione del paese, e quindi la logica vorrebbe che l'Italia avesse un governo di svolta e di alternativa guidato dal centro-sinistra. Mm. E comunque un Monti bis lei non la vede, lei vedeva, no, vede già male il Monti primus, figurarsi il Monti bis. Il punto è che le politiche del governo Monti, dal mio punto di vista, stanno peggiorando la situazione di crisi economica del paese, perché stanno spingendo l'Italia verso una recessione ancora più buia e profonda. Come avviene in Europa, come avviene ovunque, si immagina di rispondere alla crisi tagliando il welfare, tagliando i diritti dei cittadini, tagliando i servizi sociali. Io credo che in altre parti del mondo, come in America Latina, si siano superate situazioni di crisi altrettanto, se non più sconvolgenti, investendo sul welfare, investendo sulla scuola. Insomma, io penso che, come è accaduto negli anni 30 nel mondo, dopo la crisi di Wall Street, ci sono due strade per affrontare la crisi. La strada che affronta il liberismo, dal mio punto di vista, è un vicolo cieco, cioè una strada che butta la crisi tutta sulle spalle degli anziani, dei giovani, del mondo del ceto medio. C'è invece un'altra strada, quella che è stata suggerita a quel tempo da Mr. Keynes e che ha avuto nell'America di Roosevelt la sua scena fondamentale, che è dare ossigeno soprattutto ai ceti popolari e alle classi medie. A lei piace più questa. Di rialimentare il meccanismo virtuoso dell'economia e della crescita. Senta, in attesa delle regole, non ho capito, lei le primarie del centro-sinistra, Nichi Vendola ci sarà oppure no? Lei è furbo, io ho detto che i primi giorni di ottobre scioglierò questa riserva. Non ce lo vuole, diciamo, anticipare, facciamo lo scoop. Riserva ce la metta in percentuale, sì, più sì, più no. No. Perché, guardi, non è un problema né pubblicitario né estetico, è un problema politico. C'è una grande confusione nel recinto di ciò che dovrebbe essere il centro-sinistra. Non c'è chiarezza, per esempio, su quali siano i soggetti fondamentali del centro-sinistra, su come noi, per esempio, usciamo dalla dimensione dei partiti, e insieme ai partiti siamo in grado di convocare soggetti sociali fondamentali che siano costruttori di una coalizione che dia speranza al paese. Insomma, io temo molto che non si parli delle questioni vere. Le questioni vere per me sono il lavoro che non c'è, il lavoro precario, il lavoro umiliato e offeso dalle politiche liberiste, il tema dell'educazione, della formazione, cioè questi sono i temi. Il futuro del paese è dentro il futuro della scuola e dell'università. Questi sono i temi, però non svela la riserva. Io ci ho provato, che dovevo fare a chiedere. Senta, le chiedo questo invece. Lei ha annunciato da Presidente della Regione di volersi decurtare di 50.000 euro lo stipendio annuale. Però tutte le regioni adesso propongono tagli. Non è che è un po' vi volete fare belli un po' tutti in modo diverso, perché la gente non ne può più, vede che è uno schifo totale, e quindi volete fare questa operazione così? Non siamo tutti uguali. Io nel corso di questi anni mi sono già tagliato 50.000 euro e ora in un colpo solo mi taglio 50.000 euro. Quindi quanto guadagnerà adesso? Guadagnerò 8.000 euro al mese. Che sono tanti, insomma. Sono tanti. Sono uno stipendio, diciamo. Credo che a fronte di tante polemiche, penso che, essendo stato l'unico che ha dato un segno così forte di cambiamento, di sobrietà, oggi posso aspettare che tanti colleghi facciano altrettanto e soprattutto che si possa guardare all'insieme della società, perché c'è una vera giungla retributiva. Le faccio un esempio che spero e penso debba diventare oggetto di discussione pubblica. Il mondo delle banche è un mondo che vive anche diciamo, con i contributi pubblici. Quando la Banca Centrale Europea presta miliardi di euro alle banche nazionali a tassi di interesse praticamente vicini allo zero, le banche poi fanno le loro operazioni di ricapitalizzazione. Beh, tra le loro operazioni c'è anche l'innalzamento costante dei benefit e degli emolumenti per i manager bancari. Parliamo di milioni di euro. Taglino loro, ecco, quindi. Si può cominciare a guardare per intero la giungla retributiva e dire che questa è una società in cui ci sono dei picchi di ricchezza vergognosi. Questo sì, però, dei picchi di povertà vergognosi. Però Presidente, mi consenta a dire anche che lo scandalo è verso l'alto ed è anche verso basso. Lo scandalo è Marchionne, che prende circa mezzo milione di euro al mese di stipendio, a parte le stock options di decine e decine di milioni di euro. E l'operaio, lo scandalo invece è anche chi prende meno di 1000 euro al mese. Questo sì, però 8000 euro sono comunque, cioè lei dice uno stipendio, rispetto appunto al paragonato, i costi della politica sono questi. Se mi consente, dirigo un partito che ha, diciamo, per necessità anche uno stile francescano. Anche del mio vecchio stipendio una quota rilevantissima finiva per sostenere questo partito. Credo che a chi ha una responsabilità come la mia, guadagnare la metà di quello che guadagna un parlamentare non sia poi un segno di stralusso. Presidente, io la devo salutare, in realtà ho 30 secondi, lei in 30 secondi, anche se il tema è molto delicato, profondo, lei l'ha affidato in una lettera molto intensa al quotidiano Pubblico, ci può spiegare, agli italiani perché un omosessuale dovrebbe poter adottare un figlio? Ma insomma, ci sono tanti gay in tutto il mondo che sono straordinari genitori. Credo che un essere umano è in grado o meno di crescere un figlio non a seconda del suo orientamento sessuale. Ci sono genitori eterosessuali che sono pessimi genitori, o ci sono genitori splendidi. Il punto è i genitori che considerano il proprio figlio, la propria figlia, un giocattolo, una cosa, che non hanno attenzione, che non sanno accoglierlo, che non sanno accompagnarlo nell'avventura della crescita, oppure i genitori che sanno mettersi in gioco dentro un rapporto così bello come il rapporto con una creatura in formazione. Io ho sempre amato molto i bambini e mi piacerebbe vivere l'esperienza del genitore. Quando penso ai bambini che sono chiusi negli orfanotrofi di tutto il mondo, a una platea sterminata di bimbi abbandonati che sono dei vuoti a perdere, penso che io potrei essere un bravo genitore per uno di quei bambini. La ringrazio, buona giornata per essere stato con noi. Nichi Vendola, il presidente della Regione Puglia, leader di SEL. Allora, dopo aver avuto Nichi Vendola, parliamo di costi delle regioni. Anche oggi lo facciamo con due ospiti. Saluto il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio Cattaneo, della Lega. Buongiorno, presidente. Buongiorno a voi. Preciso subito che sono amico della Lega, ma sono del Popolo della Libertà. Mi perdoni, del Popolo della Libertà. Saluto anche Giovanni Barbagallo del Partito Democratico Siciliano, buongiorno, deputato buongiorno, regionale. Buongiorno, dovrei dire onorevole Barbagallo, io non è che non mi voglia sminuire, ma poi la gente confonde con gli onorevoli, però si chiamano onorevoli in Sicilia, onorevole Giovanni Barbagallo. Sì, abbiamo lo statuto. Lo statuto, l'autonomia. È costituzionale, quindi c'è questa... Onorevole Barbagallo. Senta, Cattaneo, inizierei da lei perché ci deve aiutare a chiarire questa cosa. Un suo, insomma, l'onorevole Rosso, tra l'altro, del suo collega di partito, se non sbaglio, anche vicepresidente della regione per un paio esatto, di mesi. Esatto. Ha raccontato questa cosa che ha terremotato letteralmente la regione Piemonte. Cioè, ha raccontato di avere ospitato un consigliere regionale per una vacanza in settimana bianca e questo consigliere regionale gli ha spiegato il meccanismo per cui, pur essendo in settimana bianca, lui firmava grazie alla complicità di qualcuno che era in trasferta e si è fatto la settimana bianca e risultava in trasferta, si è preso immagino l'indennità di trasferta. Le risulta questa cosa? State facendo indagini? Beh, innanzitutto devo dire che immediatamente il presidente della regione Roberto Cota ed io abbiamo invitato l'onorevole Rosso fare immediatamente il nome. Che non farà. Lui il nome detto, non l'ha fatto. Ci ha fatto pervenire una lettera che io ho letto in comunicazioni nel pomeriggio del Consiglio regionale di martedì scorso, sì. Dove sostanzialmente ha detto che insomma questo caso, insomma lui ha fatto un discorso molto generale, che è un caso che apparterebbe al passato, e siccome lui aveva sotteso che potesse essere in un certo senso il consigliere Pedrale, che non ha fatto, sì. Lui non ha fatto il nome, ma aveva, diciamo, lo scrive anche nella lettera, citato il nome di San Germano come comune, che sì, casualmente sì. È il comune di residenza del consigliere Pedrale, diciamo che è stato subito chiarito, e lui stesso lo ha precisato che non si tratta del consigliere Pedrale. Però qualcuno sarà, cioè quanti sono i consiglieri della regione Piemonte? Scusi un attimo, il nome non è, non lo vuol fare, ho fatto verificare dagli uffici puntualmente, proprio ieri mi è stato comunicato ufficialmente dal segretario generale del Consiglio regionale che per quanto attiene questa legislatura, quindi questa che è iniziata nel 2010, il caso di fattispecie non esista. Sì. Adesso stanno facendo ovviamente le verifiche del passato. Comunque Rosso, il nome io lo invito ancora a farlo a quota e all'opinione pubblica. Mm-hmm. All'opinione pubblica, anche perché credo che insomma, se no, entro qualche giorno glielo chiederà qualcuno cui non potrà non rispondere. Magistrato, perché state procedendo per eventualmente anche che ipotesi di reato ci potrebbe essere? Peculato? Non è un mistero che il presidente della regione, come capo dell'ente, anche perché molti consiglieri lo chiedono, stia valutando innanzitutto di difendere l'onorabilità della regione, insomma, anche perché la regione è una fogna, quindi insomma non è che ci ha fatto piacere alle donne. Ah, quindi state ipotizzando di querelare Rosso, sì, perché ha definito una fogna effettivamente quello che avviene. Però il concetto è questo: com'è possibile, con quali meccanismi del regolamento si può fare una cosa del genere, cioè andare in settimana bianca e farsela pagare e risultare in trasferta? Sostanzialmente non è possibile, cominciamo dalla fine ovviamente, in quanto meno non è possibile, insomma, nelle cifre che sono state dette, mi sembra, se non ricordo male, 5.000 euro, una cosa del genere. Cioè noi abbiamo un istituto che peraltro a giorni aboliremo, che è quello dell'autocertificazione, sì. Cioè da quello che le giunte e gli uffici di presidenza dei consigli fanno da sempre, perché ovviamente hanno doveri di rappresentanza, di relazione, con una legge del 2001 è stato esteso, anche se con vincoli più cogenti rispetto ai membri di giunta e dell'ufficio di presidenza, anche ai consiglieri. Cioè un consigliere, anche quando all'esterno del palazzo in questi 11 anni aveva un incontro istituzionale con un amministratore, partecipava con un ruolo attivo a questa o quella iniziativa a cui era stato ufficialmente invitato, percepiva il cosiddetto gettone di presenza dichiarandolo, e se ovviamente doveva effettuare un viaggio per recarsi sul posto, anche il rimborso chilometrico. Quindi mettiamo che uno abitasse a 150 km da Sestriere, 300 km da Torre Torno, sono 150 euro di rimborso chilometrico, cifre di oggi, 120 di gettoni presenti, 270, metta 7 giorni sarebbero 1.400-1.500 euro, ma comunque non ma credo comunque no, il principio nella chiaro. Legislatura di cui sei presidente Cotta della giunta non è successo, non è successo. Adesso, stiamo guardando indietro. Mi faccia chiedere all'onorevole Barbagallo, dunque siamo in Sicilia, lei Barbagallo tra l'altro in passato aveva proposto di ridurre il numero, se non sbaglio, dei parlamentari siciliani, credo da 90 a 70. Vana impresa. No, cioè, la proposta è stata approvata dall'Assemblea regionale siciliana ed è stata approvata al Senato il 18 aprile con la maggioranza dei due terzi, ma dalla Camera no, e adesso stata inserita all'ordine del giorno della Camera dalla Commissione Affari Istituzionali all'unanimità, però ancora non è stata approvata, e questo è un male, perché è necessaria la doppia lettura e noi non ci arriveremo più, e quindi noi rimarremo col numero di consiglieri più alti, abbiamo 90 deputati regionali, la Lombardia ce n'ha 80 con il doppio della popolazione, e questo è un altro primato negativo, probabilmente si giustificavano alla fine della guerra, ma ora si va verso una semplificazione istituzionale e la riduzione sarebbe necessaria, anche perché non tanto o non solo per la riduzione delle indennità, dei vitalizi, perché si risparmierebbero 30 milioni di euro in 5 anni. Anche perché tra l'altro, onorevole Barbagallo, ieri abbiamo letto questa notizia, lei lo stipendio come tutti i colleghi l'ha preso questo mese, è arrivato. Io l'ho preso quanto è lo stipendio del consigliere dell'onorevole siciliano? Circa 10.000 euro netti. Mentre tutti i dipendenti della regione non l'hanno preso perché sono stati pignorati il conti. Il problema però è che i deputati che hanno quando l'indennità ordinaria sono pochi, perché il problema dei costi della politica non riguarda soltanto la riduzione dei deputati, ci sono gli enti inutili, i consulenti, gli uffici di gabinetto, tutta una serie di spese discrezionali del Presidente, e quindi non c'è solo un problema di riduzione delle indennità dei deputati, ma anche dei super burocrati. No, ma quello che ci ha colpito... ma questo sì, però onorevole Barbagallo, quello che ha colpito è che tutti i dipendenti della Regione Sicilia, 20.000, non hanno preso lo stipendio questo mese. È stato fatto proprio qualche ora prima, non so se è un caso oppure perché già era un fatto burocratico. Cioè ci sta dicendo che il mandato per pagarvi lo stipendio ai politici... prima che arrivasse il decreto ingiuntivo dei dipendenti che avevano vinto il ricorso. Poco prima, a pensar male. Ci fermiamo per il traffico e poi ripartiamo. Avete capito? Poco prima che arrivasse l'ingiunzione di pignorare le casse della Regione Sicilia per un ricorso di dipendenti che l'hanno vinto, e quindi hanno pignorato le casse, hanno bloccato gli stipendi di questo mese dei dipendenti della Regione Sicilia, ma poco prima che arrivasse l'ingiunzione a pignorare le casse è arrivato il mandato di pagare lo stipendio regolarmente come ogni mese ai deputati siciliani. Che miseria, uno sa le cose, poco prima si mette in moto e vedete che risolve. Siamo con il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio Cattaneo, e con l'onorevole Giovanni Barbagallo, deputato regionale della Sicilia. Barbagallo, vorrei riprendere da lei. Cioè, immaginiamoci un dipendente della Regione Sicilia che ci sta ascoltando e non ha preso lo stipendio. Cosa penserà del fatto che invece voi politici, qualcuno ha dato il mandato poco prima per liquidare lo stipendio mensile dei politici? Ma io in questo caso non credo che sia stato fatto apposta, penso che il presidente Cascio abbia detto la verità. E poi si può anche pensare male, però non mi sembra che ci sia stata una volontà per pagare solo i deputati. Io le stavo dicendo poco fa che i deputati, cioè, fa male a pensare a pensare male, si fa peccato, sì, può darsi. Però voglio dire stavo dicendo che i deputati che prendono soltanto l'indennità ordinaria sono meno di una trentina, tutti gli altri hanno dei bonus supplementari, per cui ad esempio i tre questori dell'assemblea percepiscono altri 4.000 euro al mese in più, i due vicepresidenti altri 5.000, i presidenti delle commissioni altri 3.000. A quanto si può arrivare netti? Ci dica netto quanto dipende, perché ad esempio il presidente ha un bonus supplementare, un'indennità aggiuntiva di circa 7.000 euro al mese più 10.000 di indennità ordinaria, quindi arriva a 17 netti. Netti. Il presidente sì, 17.000 euro. Il presidente della regione. Presidente della Però Assemblea. Ripeto, questi andrebbero quantomeno dimezzati, perché loro hanno già la macchina, hanno l'ufficio, hanno i collaboratori. Quindi questa delle indennità aggiuntive legate anche alla funzione parlamentare, secondo me, mi sembra una delle cose che bisogna eliminare. Sì, uno ha la funzione di presidente e quindi si becca 7.000 euro in più, arriva fino a 17.000 euro. Vorrei tornare per un attimo in Piemonte dal presidente Cattaneo. Le chiedo questo, non so se ha visto il Sole 24 Ore di oggi, di ieri, che fa due inchieste. Ieri con le regioni tasse aumentate in 10 anni del 50%, l'addizionale IRPEF, e oggi con le regioni consumi aumentati del 40%, con le uscite correnti a quota 151 miliardi. Presidente Cattaneo, adesso sembrate tutti pronti a dire tagliamo di qui, tagliamo di là, perché ovviamente lo scempio che è emerso dalla Regione Lazio vi ha forse convinto a fare qualcosa, ma non è un po' troppo tardi? O meglio, vabbè, ben vengano tutti i tagli, ma come dire, è questo il prodotto delle regioni italiane che abbiamo avuto in questi 20 anni e oltre? Ma guardi, in Piemonte siamo piemontesi, io voglio fare un ragionamento un po' più articolato. La settima legislatura tra il 2000 e il 2005 ha variato molto sullo status del consigliere regionale, tra cui è stato anche istituito, come prima ricordavo, nel 2001 l'istituto della dichiarazione anche per i consiglieri regionali, del caso quindi che parlavamo prima. Tra il 2005 e il 2010 non è stato fatto niente, cioè è stato conservato. Io sono stato eletto il 3 maggio del 2010 e con me ovviamente il consiglio regionale attuale. E rivendico non per me, per il mio partito, per la maggioranza, ma una responsabilità complessiva che è partita già nel maggio del 2010, perché abbiamo cominciato una manovra diciamo di retromarcia sullo status del consigliere e una manovra di contenimento dei costi del consiglio. Però per esempio, scusi, non è che vogliamo farsi... Lei come presidente del consiglio regionale quanto prende? Ce lo dica netto, che così capiamo. Quanto arriva? Come stipendio con la dignità aggiuntiva e gettoni tutto è circa 10.000 euro. Poi ci sono, siccome io abito a Verbania, percorrono il giorno 320 chilometri e non uso la macchina in servizio, un rimborso chilometrico che può variare dai 3-4 mila euro. Però di... capisci, cioè, quindi si può arrivare sui diciamo 10.000 netti più 3.000, cioè sono cifre che a un italiano medio fanno sobbalzare sulla sedia ormai, bisognerebbe sì. fare un, arrivare a non so un 3-4 mila euro, non di più, o no, o esagero? Innanzitutto io credo che bisogna differenziare il ruolo del consigliere con quel, col ruolo diciamo del presidente soprattutto della regione, del consiglio, di un assessore, di chi comunque ogni giorno non potrebbe che fare quel lavoro a tempo pieno di un'azienda come una regione che ha migliaia di dipendenti e un consiglio regionale insomma che lavora 5 giorni su 5 a differenza del Parlamento nazionale. Beh, cinque giorni su cinque come tutti gli italiani, ecco appunto. Sì, però per esempio il Parlamento che fanno sempre come ah, dire beh, molto sì, rigorosi certo, con gli certo. altri, con le province e le regioni, io sono stato parlamentare per un paio di mesi, devo dire che forse non è uno dei periodi che mi sono affaticato di più nella mia vita. Questo sì, perché però diciamo... capisce, si fanno i raffronti con quello che guadagna il Parlamento, ma i raffronti con quello che guadagna la gente comune si fa fatica, è questo che la gente dice, ecco vedete che la politica viaggia su binari separati. No? La politica in questo decennio si è staccata un po' dalla realtà, questo non c'è dubbio. Stavo dicendo prima, se mi dà un minuto, noi comunque ne abbiamo cominciato nel 2010, prima sentivo il presidente Vendola, no? Che faceva sì. delle riflessioni, per esempio la Puglia è una di quelle regioni che non ha ancora riportato nell'alveo della normalità un aspetto che è la liquidazione, no? Cioè il cosiddetto indennità di fine mandato, sì. noi avevamo 2 mesi ogni anno di servizio, l'abbiamo portata subito a luglio del 2010 a 1 mese, molte regioni che lo avevano lo hanno fatto. Noi poi abbiamo ridotto l'indennità del 12%, io ho inventato e introdotto la firma elettronica per il giorno del Consiglio e per il giorno della Commissione, quindi il gettone dei 122 euro. Non si può bigiare, insomma. Non è più come prima, bravo. L'indennità di fine mandato, raccontiamo, cioè finisce il mandato e uno ha un'indennità di reinserimento. Si chiama indennità di fine mandato, sì. così la si può giustificare come una liquidazione, diciamo. Il Piemonte aveva con la precedente normativa 99.500 euro, con l'attuale normativa in combinato disposto del dimezzamento e della riduzione della indennità di riferimento saranno circa 43.000 euro. C'è sempre dimezzare, cioè fare una bella piazza pulita e spazzare via tutto non ci si riesce. Allora vogliamo le regioni e mettiamo... Non lo dica forte, Presidente. Ma guardi, io credo che però la politica sia anche una forma di servizio per chi la fa in modo pulito, in modo diciamo chiaro, servizio del territorio, di una gente. Sicuramente deve riformarsi in termini di introduzione di maggiore trasparenza, di contenimento della spesa, su questo credo che solo un cretino non possa, come dire, condividere questo. Però manteniamo le regioni, no, perché si diceva sempre aboliamo le province, aboliamo le province, forse scopriamo che sono le regioni sono il vero problema. Io ho testimonianza di pile di carta stampata dove sostengo, ma è una mia opinione personale, che il nostro paese non possa più permettersi 4 livelli di spesa e di competenza, quindi Stato, Comune, Regione, Provincia, atteso che il Comune e lo Stato non si può sostanzialmente toccare, forse bisognava fare una riforma molto alta, o abolire le regioni. I costi forse ci converrebbe di più, proprio facendo i conti della serva, a questo punto le regioni, mi pare di capire. Comunque io mi devo fermare qui, vi ringrazio sia il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Valerio Cattaneo, sia l'onorevole Giovanni Barbagallo del Partito Democratico Siciliano. Devo fare un appello pubblico in chiusura, scusate, una cosa molto... Mi ha spedito una mail il papà di una ragazzina di 11 anni con una richiesta particolare sulla nostra sigla. Perché faccio questo appello pubblico? Perché se non notoriamente un rimbambito, ho cancellato la mail. Se è all'ascolto, caro genitore, non vorrei deludere la sua figlia di 11 anni che magari lì dice ma questo qui manco mi risponde, ho perso la sua mail, mi riscriva per favore. alessandro.milan@radio24.it, esaudirò la richiesta. Ci fermiamo, riascoltate tutto su radio24.it. grazie a Elisabetta Fusconi in redazione, con Alessandro Longoni e a Peter Bescapella Alpino in regia. Siamo anche su Twitter, Alino Milan, quello sono io. A lunedì.